Allora, siamo qui per presentare il libro di Rodrigo Lunes, di Orizzontale e di Verticale, che ci è piaciuto molto. Io sono Alessandro di Cracasborghi, sono qui con Sara. E volevamo fare questo dibattito attorno a questo libro, che si estenderà anche al di là probabilmente dei contenuti. E siamo qui con Rodrigo Lunes, l'autore, Uming 1 e Igor Shtix. Questo libro di Rodrigo Nunes parla di organizzazione politica e in particolare parla di orizzontalismo e verticalismo, che sono due modi di approcciare l'organizzazione. E in risposta a questi due modi di organizzarsi trova una terza via, una via di mezzo, una cosa che va al di là di questi due orientamenti. Non vorrei dire troppo. Dirò soltanto che è un libro molto interessante, che prende parte dalle proteste del decennio scorso, del 2011, e anche in generale comunque del XXI secolo, e cerca di trovare risposte a come organizzarsi e come pensare la politica come una specie di ecologia, in cui cerchiamo di comprendere tutte le relazioni fra i movimenti invece che soffermarsi sull'identità di uno in particolare per raggiungere gli obiettivi politici. Adesso vorrei soltanto passare un attimo la parola a Sara per spiegare chi siamo e cosa facciamo a Trieste con Caritas Sporca. Buongiorno, innanzitutto grazie per essere venuti, siete tantissimi. Sì, vorrei subito sottolineare una cosa, cioè dove siamo e chi siamo. Ieri si stava parlando un attimo di questo luogo e appunto si sta facendo una distinzione tra spazio e luogo, perché gli spazi, se ci pensate, sono quelli che attraversiamo tutti i giorni, che non hanno molto senso per noi. I luoghi invece sono fatti dal senso che gli diamo e dalle persone anche che incontriamo in quei posti. Questo è un luogo da questo punto di vista. E quindi ci sta a fare questa presentazione qui, e vorrei anche sottolineare che l'importanza dell'azione che ha creato questo luogo, ovvero di un'occupazione. Carta Sporca è nata da un'occupazione in università ai tempi della riforma Gelmini, no? Quindi, proprio quando si parla di movimenti, di organizzazione, di lotta, di classe, vorrei che si pensasse subito alle persone con cui lottiamo, con cui stiamo ogni giorno, e ai luoghi in cui lottiamo, perché i luoghi sono direttamente implicati nel movimento che vogliamo costruire, nel come del nostro stare insieme. Quindi vorrei appunto che non solo prestate attenzione alla presentazione, ma anche a dove siete, con chi siete. Quindi con la presentazione passo la parola a Roberto. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, il libro di Rodrigo è stato scritto per cercare di capire come garantire una continuità ai movimenti, alle mobilitazioni, superando l'andamento che definirei vulcanologico. Si passa da un'eruzione del vulcano sociale con grandissime mobilitazioni di massa, con un aumento improvviso della temperatura sociale e culturale, con le città che si riempiono di gente, assemblee stracolme che straripano dagli spazi dove erano state convocate, diventano assemblee aperte per strada, forme di auto-organizzazione e di iniziative dal basso. Abbiamo visto diverse volte appunto questo tipo di eruzione. L'ultima volta l'abbiamo vista in realtà molto più recente in Italia, con le grandi mobilitazioni dell'autunno scorso sulla questione di Gaza. Poi però c'è il fallout, ci ritroviamo lo spazio pubblico con uno strato di cenere, che spesso ci arriva fino alle caviglie. Fuori di metafora, abbiamo delle fasi di alta e delle fasi di bassa. Abbiamo la grande mobilitazione seguita dal riflusso, la grande ondata seguita dalla risacca, sono possibili tanti metafore per questa cosa. E la risacca porta con sé la frustrazione, la depressione, ci si sente deprivati di una dimensione di comunione con le altre persone che durante la fase alta di cui si era fatta esperienza, ci si chiede come sfuggire a questo meccanismo, no? A questo andamento altalenante. E ci sono state diverse riflessioni su questo negli anni scorsi, ma non si è mai riusciti a trovare, diciamo, la chiave, la quadra. Perché, ad esempio, i verticalisti, come li chiama Rodrigo, sostengono che il problema di questa discontinuità, di questa appunto intermittenza del conflitto sociale, sia dovuto all'eccessiva orizzontalità di queste mobilitazioni, e quindi ci vuole il partito. Ecco. D'altro canto, gli orizzontalisti non riconoscono la necessità dell'organizzazione, c'è un rifiuto a priori di darsi forme organizzate che garantiscano una continuità nel tempo e un radicamento nella società, e quindi ogni volta è come se si ripartisse da zero. Non è propriamente vero, perché comunque sedimentazione c'è, però ecco, ogni volta vediamo, cioè, raggiungiamo un picco e poi all'improvviso ci ritroviamo in fondo a uno strapiombo. Il problema è proprio in questa dicotomia tra orizzontalismo e verticalismo, secondo Rodrigo. Il problema è avuto una mancanza di chiarezza su che cosa significhi organizzarsi. Cos'è l'organizzazione? Dovremmo usare organizzazione intendendo un processo che avviene anche fuori dalle organizzazioni, intese come enti, no? Come soggettività organizzate, come istituzioni, eccetera. Dovremmo dire che c'è sempre dell'organizzazione diffusa, anche quando si parla di, ad esempio, rivolte spontanee. Anche all'interno di quelle rivolte spontanee c'è una forma di organizzazione, c'è una forma di coordinamento, certo flebile, debole, sporadica, insufficiente, ma non esiste nulla, dice Rodrigo, di disorganizzato. La completa assenza di organizzazione non esiste. Quindi pensare che organizzazione significhi partito, o comunque significhi, insomma, che ci sono dei grumi che si rapprendono in qualche modo, è improprio, è sbagliato. Rodrigo parte da lì, da ridefinire che cosa vuol dire organizzazione, per cercare di fare chiarezza su tutta una serie di pseudoconcetti che volano intorno, no, nei nostri dibattiti, che usiamo da decenni così in maniera automatica e anche pigra, e fa piazza pulita di diverse mitologie molto deteriori sui movimenti. Quello che ho apprezzato molto quando l'ho letto per la prima volta in inglese nel 2022, il libro, è proprio questo sforzo proprio inesorabile di fare chiarezza su un concetto dopo l'altro. Cosa sono le reti? C'è stato molto il mito delle reti, no? Dei movimenti, cioè con rete che era usato come sinonimo di organizzazione orizzontale. E giustamente Rodrigo dice, ma veramente ogni cosa è una rete, cioè nella realtà ci sono solo reti, anche il partito più verticale è una rete, semplicemente ci sono nodi di quella rete che sono più grossi e più accentranti rispetto ad altri, però rete non vuol dire assolutamente, no, orizzontalità. E questo è un esempio del tipo di lavoro che fa. Altri concetti su cui cerca di fare chiarezza, lui in questo sforzo parte da una distinzione tra funzione e posizione, cioè ci sono delle funzioni che nella politica, nei movimenti, sono assolutamente indispensabili, essenziali, non possono non esserci, e ci sono sempre, anche quando le si nega a parole. Una di queste funzioni è la leadership. Noi quando pensiamo a leadership pensiamo a una posizione che qualcuno occupa più o meno permanentemente. E quello è il problema, no? È il problema. Quando una funzione che dovrebbe essere appunto esercitata nella maniera insomma più a fondo diffusa possibile, no? Perché Rodrigo giustamente dice leadership deriva da lead, anche da noi, no? Si dice dirigenti, no? Da dirigersi, no? Infatti io ho detto che per prendere l'idea di cosa cerca di dire Rodrigo in italiano dobbiamo dire che un dirigente è dirigentesi. Cioè, cos'è il leader? Il leader o la leader è il soggetto che in un certo momento decide di muoversi per primo in una certa direzione, in una maniera abbastanza innovativa e convincente perché altri si muovono in quella direzione. Però non è detto che il giorno dopo quella persona lì sia ancora leader. È una funzione che può essere distribuita, che nelle condizioni migliori è distribuita. Ma se invece la pensiamo come una posizione che qualcuno occupa e la occupa sempre e diventa il leader proprio come ruolo, allora quello è il problema, no? Quello è il problema di identificare la leadership solo con questo. Lo stesso lavoro lo fa col concetto di avanguardia, ad esempio, lo fa con l'idea stessa di agire collettivo, perché Rodrigo fa una distinzione tripartita, secondo me fondamentale. Distingue tra azione aggregata, azione collettiva e azione distribuita. Dopo lascerò a lui di spiegare che cosa intende con queste cose. Però vedete, sono tutti termini che conosciamo già. Ecco, io questa cosa la dico sempre. Rodrigo non cade nella trappola di troppa teoria, no, che è in circolazione da tanto tempo. Quella del continuo e ripetuto conio di neologismi che altri dovrebbero poi feticizzare. Spesso il teorico, il filosofo, il sociologo, il politologo, eccetera, per ritagliarsi una figura insomma riconoscibile dentro il mercato accademico, editoriale, mediatico, eccetera, la prima cosa che fa è costruirsi un gergo. Una volta chiesero a Foucault: ma perché lei nelle interviste è così chiaro e invece nei suoi saggi è così oscuro? E lui disse: perché nell'Accademia devi scrivere così? Cioè lo dice un papale papale, mentre le interviste di Michel Foucault sono cristalline, sono chiarissime, spesso invece i suoi testi sono impenetrabili, no? Ecco, questo è un problema. E negli ultimi decenni questa cosa è sfuggita di mano. Devi per forza avventurati in questa giungla di neologismi, ciascuno c'è il suo, spesso vogliono dire più o meno la stessa cosa, ma ciascun pensatore, ciascun teorico, ciascun analista ha il suo, e quindi devi... Un esempio che abbiamo fatto a Bologna è che non c'è tanta differenza tra tanatopolitica e necropolitica, sostanzialmente è la stessa cosa, basta dire politiche legate alla morte. No, ecco, Rodrigo non fa questo lavoro né compulsivamente neologizzante, ma usa parole già di uso comune nel dibattito e semplicemente fa notare che hanno più significati di quelli che si sono fossilizzati nell'uso comune. Lo fa con leadership, lo fa con avanguardia, lo fa con l'organizzazione stessa. Ed è un lavoro di grande pregio e di grande importanza, perché veramente fa chiarezza concettuale. Ci dimostra che spesso noi ragioniamo e agiamo in base a degli pseudoconcetti. Ecco. La dicotomia, diciamo la contrapposizione netta tra orizzontalità e verticalità nasce da tutta una serie di malintesi, di fraintendimenti su che cosa voglio dire organizzarsi. Fraintendimenti che in realtà sono terreno comune tra i due campi contrapposti. Cioè, verticalisti e orizzontalisti hanno la stessa idea di organizzazione, identica, semplicemente che alcuni la vogliono e altri la rifiutano. Cioè, gli uni la vogliono e gli altri la rifiutano, ma sostanzialmente quando dici l'organizzazione, entrambi i campi ideologicamente contrapposti pensano alla stessa cosa. Appunto, l'organizzazione gerarchica, rigida, identificata col partito o con forme o con ciò che ne fa le veci, un collettivo molto centralizzato, basato sulla leadership permanente e carismatica di qualcuno e quant'altro. Il libro di Rodrigo invece fa vedere che la realtà è molto diversa. Ecco, l'ultima cosa che dico del libro di Rodrigo, prima di dare la parola a lui, è che anche questa è una cosa a cui in tutte le presentazioni, insomma, in tutte le presentazioni ho voluto ribadire. Rodrigo non propone cose nuove, ma ci mostra quello che già esiste. Quando lui parla di intendere i movimenti come ecologie, come ecosistemi, in realtà non sta proponendo di farlo ex novo, no? Dire i movimenti finora non sono stati ecologie, io invece dico che da qui in avanti devono essere considerati tali. No, lui dice ogni movimento è sempre stato un'ecologia, lo è sempre stato. Anche il movimento operaio, giustamente, lui scrive a un certo punto, è un'ecologia, è un ecosistema con soggetti diversificati, non c'era solo il partito del proletariato, c'era il sindacato, ma c'erano le cooperative, che a loro volta era un mondo tutto diviso tra cooperative di produzione, cooperative di consumo, c'erano i cori operai, le filodrammatiche operaie, c'erano appunto in Italia i circoli arci, le case del popolo, è un ecosistema. Ogni movimento è sempre stato un'ecologia, cioè, e anche nelle fasi basse c'è sempre un'ecologia di movimento, c'è sempre, anche nelle fasi basse, può essere appunto più debole, la sua voce può essere più flebile, okay? Può sentirsi più impotente rispetto a come si sente nelle fasi alte, ma un'ecologia minima di movimento rimane sempre. Ecco, la grande forza di questo libro è che dice guardate quello che c'è. Non ti do la ricetta per costruire qualcosa di nuovo, ma ti propongo di guardare in modo diverso quello che già c'è, in modo da valorizzarlo. Perché se i movimenti non sono consapevoli di essere delle ecologie, sperpereranno un sacco di tempo ribadendo punti identitari in fondo visibili, differenziandosi su cazzate, e spenderanno un sacco di tempo in una sorta di guerra intestinale, spesso ad alta intensità, invece che preoccuparsi di cambiare il mondo. Se invece i movimenti diventano consapevoli, sempre più consapevoli di essere delle ecologie, probabilmente trascorreranno molto meno tempo a cavillare sulle differenze interne e invece si preoccuperanno di più su come interagire al meglio per cambiare il mondo. Vi fermo, grazie. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Grazie a Roberto, ai compagni di Carte Sporca, anche della Casa delle Culture, e anche a voi che siete venuti in questo orario un po' strano per sentirmi parlare un italiano ancora più strano, che avete deciso di perdersi la messa per questa occasione. Spero che vi sembrerà che la dannazione eterna vi sembrerà un prezzo ragionevole da pagare. Ebbene, come avete sentito e come sicuramente avete già immaginato dal titolo del libro, il libro parte da una dicotomia, no? La dicotomia che dominato il dibattito sull'organizzazione dagli anni 90 più o meno, al presente, o forse non sia più il nostro presente, magari infatti non sia più il nostro presente, ma che è quella dicotomia tra orizzontalismo e verticalismo, o orizzontalisti e verticalisti, e anche come immagino che avete concluso dal titolo, quello che il libro prova di fare è andare oltre questa dicotomia. Ma io direi che questo andare oltre non vuol dire un passo avanti, cioè il libro, come ha segnalato Roberto, il libro non prova di proporre una terza cosa, no? Una nuova ricetta ideale per la politica, che sarebbe l'Aufhebung dialettica dell'orizzontalismo e del verticalismo. Io direi infatti che quello che il libro fa è un passo indietro per mostrare che quella bipartizione dello spazio politico o del dibattito sull'organizzazione è sbagliata, o che sia giusta nel senso che sicuramente anche rivela qualcosa di vero sul mondo, non è la forma più producente di tagliare la realtà. Perciò precisamente dobbiamo fare un passo indietro per ripensare dall'inizio la questione dell'organizzazione, i termini della questione dell'organizzazione, di una forma che ci permetterà di vedere in che senso questa bipartizione, questa dicotomia non ci serve, non ci aiuta a pensare, a fare organizzazione, ma anche per trovare altri tipi di per dissolvere i problemi esistenti che non ci servono, e anche per proporre altri tipi di problemi che non riusciamo a vedere se non facciamo questo sforzo di ripartire dall'inizio. Perché l'inizio per me, il punto di partenza per me è proprio quello che ha segnalato Roberto, che è la grandissima ironia, ma una ironia che era molto visibile nel decennio passato, nel contesto del movimento delle piazze, no? Movimenti che si presentavano, la cui grandi novità, che non era proprio novità, erano idee vecchie da almeno 10 anni, ma che si presentavano come le grandi novità di questi movimenti, che era il fatto che fossero movimenti orizzontali, senza organizzazione, senza leaders. La grande ironia che si rivelava in quel momento era che l'idea di quello che voleva dire organizzazione, quello che voleva dire leader, e così via, che si facevano questi movimenti, era fino in fondo, o supponeva fino in fondo, la stessa grammatica dei suoi nemici, dei cosiddetti verticalisti. Perché cos'è qual era il consenso tacito che era in quel momento? La idea che cosa pensano i verticalisti, tra virgolette, sull'organizzazione? Che l'organizzazione è qualcosa che non esiste veramente finché ci sia una struttura deliberata con i suoi meccanismi di centralizzazione, che è finalmente il protopartito o il partito. Alla fine sempre il telos sarà il partito come forma organizzativa, e quindi se non c'è questo non c'è l'organizzazione. Allora, cosa dicevano gli orizzontalisti quando dicevano noi non abbiamo organizzazione e neanche vogliamo avere l'organizzazione? Che qui non c'è precisamente quello che i cosiddetti verticalisti comprendono per il nome organizzazione. Quindi questa ironia mi sembrava altamente problematica per almeno due motivi in quel momento. Il primo è che quello che questi movimenti del decennio passato e ancora sempre, movimenti come quell'ondata di proteste dell'anno passato qui in Italia, che è stato il movimento Propal, questi movimenti rivelano che ci sono, cioè, oggi ci sono, ci possono essere movimenti di massa in cui il ruolo delle organizzazioni di massa è relativamente secondario. Quello che vuol dire che necessariamente ci devono essere rapporti organizzativi che non sono contenuti all'interno delle organizzazioni tradizionali, le organizzazioni che riconosciamo dal 800 e dal 900, a quello che vuol dire anche che l'organizzazione non è qualcosa che sia contenuta all'interno delle organizzazioni, no? C'è organizzazione tra le diverse organizzazioni, c'è organizzazione tra le organizzazioni e la gente che non è organizzata, nel senso che non appartiene a nessuna organizzazione. Ci sono dei rapporti organizzativi tra la gente, tra di loro, senza passare per nessuna organizzazione e così via. Quindi l'organizzazione non può essere pensata esclusivamente come qualcosa che si dice delle organizzazioni e ancora meno che si dice soltanto di un tipo di organizzazione, che sarebbe finalmente il sindacato e il partito. Quindi primo problema, ma anche un problema pratico grandissimo, che è il fatto che questi movimenti che ho chiamato i movimenti di massa senza organizzazioni di massa, cioè in cui le organizzazioni di massa giocano un ruolo piuttosto secondario o un ruolo che non è assolutamente centrale, questi movimenti possono esistere oggi a causa delle possibilità che ci sono offerte dalle piattaforme digitali. Quello vuol dire che queste possibilità che ci offrono le piattaforme vogliono dire che oggi è possibile avere dei movimenti che crescono in scala molto velocemente, ma precisamente perché crescono in scala molto velocemente non riescono a sviluppare le capacità organizzative che possono permettere a questi movimenti a una durata, no? Di durare nel tempo contro la repressione e contro la resistenza dello Stato e il capitale. Allora, quando i militanti del decennio passato dicevano noi non abbiamo organizzazione e neanche la vogliamo, perché pensavano che l'organizzazione non può essere qualcosa d'altro che quello che i verticalisti chiamano organizzazione. Quello che dicevano era anche noi neanche vogliamo sviluppare le capacità che ci permetterebbero di durare a fronte alla reazione, fronte alla resistenza del capitale, dello Stato. Quindi un problema grandissimo dal punto di vista pratico. E perciò, precisamente perché era questo accordo tacito altamente problematico che creava dei problemi pratici molto importanti, mi è trovato necessario ripartire dall'inizio, cioè da una ridefinizione dei termini del dibattito per rendere espliciti e esaminare queste supposizioni che non venivano mai esaminate nel dibattito. Quei termini tradizionali del dibattito sull'organizzazione che alla fine supponevano, senza farlo mai esplicitamente, ma supponevano che la questione dell'organizzazione vuol dire la domanda sulla forma ideale che deve avere una singola organizzazione per aggiungere i suoi obiettivi. Ma se lo diciamo così, possiamo immediatamente trovarci dei presupposti che sono altamente problematici. Il primo, l'abbiamo già visto, che l'organizzazione sia qualcosa che sia necessariamente contenuta all'interno dell'organizzazione e perciò che possa essere l'oggetto di una decisione, di una deliberazione collettiva, scegliamo questa forma e non quell'altra. Ma se l'organizzazione non è qualcosa contenuta all'interno dell'organizzazione, quindi pensare che l'organizzazione, la questione dell'organizzazione sia la ricerca di una forma ideale diventa altamente problematico, perché all'interno di un movimento come il movimento Propal non c'è neanche lo spazio di deliberazione che potessi dire a quella sarà la forma di questo movimento. È proprio questo che caratterizza un'ecologia per opposizione a un'organizzazione. All'interno di un'ecologia non c'è questo spazio di deliberazione, no? L'ecologia è uno spazio aperto, non delimitato. Quindi, primo problema, sì, pensiamo che l'organizzazione non è qualcosa che esiste soltanto all'interno di una singola organizzazione. Pensare che la questione dell'organizzazione sia la ricerca della forma ideale che deve avere una organizzazione diventa un problema. Ma ancora più problematico è l'idea che ci sia una forma ideale. Cioè che ci sia una forma ideale che, se la troviamo, ci farà vincere sempre. Se pensiamo che l'organizzazione è qualcosa che esiste sempre all'interno di un'ecologia, no? Un'ecologia che è fatta dall'insieme di rapporti tra la gente che non appartiene a nessuna organizzazione, ma anche tra le diverse organizzazioni che esistono e così via. La pluralità, la diversità di questa ecologia è data dall'inizio. Ci sono tantissimi tipi, livelli e gradi di organizzazione che non possono essere ridotti a una singola idea di quello è, questo è quello che si deve fare e tutti devono fare così. E anche non è un problema che ci sia questa diversità. Questa diversità può anche essere un vantaggio se ci sono i rapporti all'interno di queste ecologie che permettono a questa ecologia agire insieme, agire sinergeticamente a partire della sua diversità. Ma anche, no, è molto problematica l'idea, quindi l'idea della forma ideale è problematica perché dire ecologia, pensare che l'organizzazione è sempre data all'interno di un'ecologia e non esclusivamente all'interno delle singole organizzazioni, pensare che c'è già una pluralità di forme, ma è anche problematico perché l'idea di una forma ideale è finalmente la ricerca di una perfezione che non può esistere nel mondo. No, la migliore forma che possiamo darci o possiamo dare alla nostra organizzazione può diventare inutile se cambiano le situazioni, perché alla fine la forma viene determinata dai rapporti di forza che esistono al suo intorno. E se passiamo a pensare così, se cominciamo a spostare i termini del dibattito così, ci rendiamo conto che finalmente il verticale e l'orizzontale non è una buona maniera di tagliare la realtà, perché all'interno dei movimenti orizzontali dobbiamo necessariamente trovare dei momenti, dei movimenti detti orizzontali, dobbiamo necessariamente trovare dei momenti di verticalità e anche l'inverso, i di organizzazione detti verticale non sarebbero mai riuscite a fare qualsiasi cosa se non ci fossero anche i momenti di partecipazione, di apertura, di inclusione della diversità. E possiamo, ancora una volta, possiamo pensare al movimento Propal per vedere che le cose funzionano così. Sì, allora sì, dovete descrivere il movimento dell'anno passato, immagino che direte che è un movimento orizzontale, vero? Sì? Va bene. Ma com'è nato? Come nasce il movimento? Nasce da una cosa che viene da fuori, che è l'economia della tensione, no? È tutta quella attenzione catturata dalla sub-flottia in quel momento, e la sub-flottia è una cosa che gioca un ruolo assolutamente essenziale in quel momento, è anche una cosa, sì, la pensiamo da altri aspetti, abbastanza problematica, no? Perché è un po', se guardiamo a quello che succede all'intercomunale, è un po' un summer camp per gli influencers di sinistra, che può essere una cosa abbastanza problematica, ma in quel momento gioca un ruolo importantissimo perché cattura proprio l'attenzione della gente. E poi ci sono delle organizzazioni, un'organizzazione piuttosto verticale, che hanno l'iniziativa di dire qui c'è un'opportunità di fare qualcosa, ma noi si proviamo a fare questa cosa individualmente come le nostre organizzazioni, non ce la facciamo, o non ce la facciamo come può essere, non ce la facciamo così grande quanto può essere, perché c'è un'opportunità molto grande qui. Allora, cosa succede? Nel giorno del sciopero generale, queste organizzazioni che sono, possiamo descrivere come, no, i sindacati che possiamo descrivere come verticale, che anche, immagino, tra di loro si pensano proprio come verticale, pensano proprio la verticalità come una virtù. Cosa fanno loro? Dicono: questa data, sciopero generale, noi, perché abbiamo questa capacità, blocchiamo i porti. Voi fate cosa volete. Quello che fanno in quel momento è precisamente convocare un'ecologia, no? E dire qui no, ma non è interamente aperta, perché c'è una decisione che incanala l'azione collettiva verso un punto. Questa è la data, questo è il tema, questo è il contesto per l'azione, ma poi la tua azione puoi apportare tu come la pensi meglio. Quindi, se guardiamo la realtà di tutti questi movimenti, i momenti, e possiamo farlo anche, non so, con Fridays for Futures, ancora una volta, credo, tutti la descrivono come orizzontale. Ma da dove viene? No, c'è una leader molto, molto chiara, una leader che gioca il suo ruolo in una forma che è interamente diversa da quella, non so, di Stalin, ma questo è anche un fenomeno di leadership alla sua maniera. Quindi, se cominciamo a guardare le cose da questo spostamento, dai termini, vediamo che sono sempre più complicati, più complessi di quanto, no, questa idea di una bipartizione dello spazio politico tra, da un lato, i verticalisti, dall'altro lato gli orizzontalisti, è un'idea sbagliata. Quello che vuol dire precisamente che la peggiore ragione, io direi, che la peggiore ragione per prendere una decisione organizzativa è l'identità. E forse il risultato ideale di questo libro per me sarà il giorno che sentirò da qualcuno: guarda che io sono marxista-leninista, e in questa occasione ho pensato che non c'era niente d'altro da fare, la cosa più giusta da fare era un'assemblea a prendere delle decisioni per consenso. O invece, no, qualcuno mi dice: guarda, io sono orizzontalista ortodosso, ma in questa situazione non c'è niente d'altro da fare che aumentare la capacità di coordinazione tra questi gruppi per essere capaci di prendere decisione più rapidamente, e perciò non ci servono più le assemblee, o le assemblee non possono essere l'unico spazio di presa di decisione, no? Cioè il momento precisamente che la gente si rende conto che la domanda giusta da farsi sull'organizzazione è: cosa ci serve adesso? E no, cosa facciamo perché questa è nostra identità? Come lo facciamo per corrispondere a una identità astratta che ci abbiamo creato? Ma cosa ci serve con queste risorse, in questo momento, con questa opportunità politica che esiste, con questi rapporti all'interno di cui siamo, e così via, e con questi obiettivi che abbiamo adesso? E allora, tra, no, quest'altro tipo di questione politica, di questione organizzativa che può emergere, si spostiamo i termini, si andiamo oltre questa bipartizione sbagliata dello spazio politico tra orizzontalisti e verticalisti, ci rendiamo conto che al di là delle questioni organizzative che ci possiamo fare sulle nostre organizzazioni, c'è tutto un mondo di questioni organizzative sui rapporti che esistono al nostro intorno. Precisamente quando dice Roberto, no, che io dico, io insisto su questo punto, l'ecologia, io non vi dico fate l'ecologia, l'ecologia c'è già. Infatti qui in Italia, io sempre, a ogni posto dove sono andato, ho trovato sempre un'ecologia locale ricchissima. Forse non vi rendete conto di quanto è ricca l'infrastruttura di movimento locale che esiste in Italia, incomparabile a qualsiasi altro paese che conosco io. Quindi l'ecologia c'è sempre già, ma la questione è oltre, no? Cosa facciamo del nostro spazio, cosa facciamo della nostra organizzazione, e cosa facciamo di questo insieme, perché noi sappiamo che la nostra organizzazione, il nostro spazio, solo non ce la farà. Quindi abbiamo necessariamente bisogno delle risorse, della potenza di agire che esiste al nostro intorno, e anche, no, di trovare gente nuova, di trovare nuove risorse di energia, di potenza collettiva di agire, e così via. Ma quindi si cominciamo a pensare la politica ecologicamente. Questo è l'altro tipo di questione che può emergere e che mi sembra, no, in un tempo come il nostro, che ha un tempo di frammentazione sia dalla società a sia dalle forze politiche, mi sembra il tipo più utile di questione organizzativa che ci possiamo fare. Grazie. Il motivo per cui io in particolare ho insistito perché Igor prendesse parte all'incontro di oggi. Nasce tutto verso metà novembre, quando il movimento Propal stava già nella sua fase discendente qui in Italia e le stesse settimane mi era capitato di andare a Novi Sad e di assistere il 1 novembre alla commemorazione del primo anniversario del crollo della tettoia della stazione di Novi Sad, dove erano morte 16 persone, un episodio che ha messo in moto un movimento che non ha precedenti nella storia della Serbia e credo nella storia dei Balcani e che a differenza del movimento, ad esempio, Propal in Italia, ma di molti altri movimenti di cui parlavano Rodrigo e Roberto adesso, ha avuto anche una durata decisamente più lunga, ha resistito molto più a lungo a dei colpi molto forti da parte del potere serbo di Vučić. Io ero rimasto colpito perché proprio in quelle settimane io leggevo il libro di Rodrigo, vedevo le piazze Propal e riconoscevo appunto tutti i tratti delle questioni che vengono poste nel libro e sono state in parte accennate adesso. Ma lo stesso mi è successo andando in Serbia, vedendo quella situazione di cui io personalmente sapevo pochissimo e mi sono accorto che qui in generale proprio ne sapevamo davvero poco, anche per un vizio, soprattutto qui a Trieste, molto italocentrico di guardare a quello che succede vicinissimo a noi, nei Balcani, in particolare nei paesi ex jugoslavi. E nelle stesse settimane ho scoperto che a Trieste da qualche tempo viveva Igor Stix con sua moglie Jelena Vasiljevic, che purtroppo non è qui oggi con noi, e che entrambi erano appena arrivati da Belgrado, si erano appena trasferiti qui da Belgrado, in parte anche per il fatto che l'aria in quella situazione, per chi aveva fatto parte di quei movimenti nei mesi precedenti, cominciava a diventare un po', frizzante, diciamo così. E in un'ecologia nulla succede per caso, quindi penso che tutte queste cose abbiano, in qualche modo, siano delle convergenze che siano state particolarmente. Ma non è questo il motivo per cui abbiamo chiesto a Igor di essere qui oggi. Ce ne sono almeno due che invece sono direttamente collegati con i contenuti del libro di Rodrigo. Il primo è proprio che io poi nelle settimane successive mi è capitato, e non solo io, abbiamo cominciato a leggere un po' i saggi politici curati o scritti da Igor Stix negli anni scorsi sui movimenti nei paesi dell'ex Jugoslavia e abbiamo trovato delle impressionanti analogie con quanto leggevamo nel libro di Rodrigo, in particolare quella che segnalava Vuninguno all'inizio, ovvero il fatto che concetti che solitamente tendiamo a considerare assolutamente dicotomici, contrapposti, in contraddizione tra loro, in realtà non sono per niente incompatibili se li guardiamo sotto prospettive diverse. L'altro aspetto invece riguarda tutto il discorso che appunto Rodrigo adesso ha squadernato in maniera molto ampia sull'organizzazione e sulla paura dell'organizzazione di molta parte della sinistra, dell'organizzazione e dell'organizzarsi. È l'origine storica di questa paura che lui rintraccia, credo molto correttamente, in quel trauma che deriva dalle torsioni autoritarie dei paesi socialisti. Ora, la Jugoslavia di Tito non è stata immune da torsioni autoritarie. Tito stesso, dal punto di vista del culto della personalità e parlando di leadership, funzione, leadership distribuita, sicuramente aveva poco da invidiare a Stalin, anche se anche in questo caso si trattava sicuramente di una personalità assolutamente diversa. Ma al netto di questa cosa qua, è evidente che la storia della Jugoslavia è stata assolutamente, fin dai suoi primordi della Jugoslavia socialista, è stata assolutamente diversa da quella dei paesi socialisti del blocco sovietico, se non altro per due motivi storici immediati. Il primo, che si sono liberati dal nazifascismo praticamente da soli, e qui lo sappiamo bene perché le prime formazioni partigiane italiane operarono all'interno, prima del settembre del 43, operarono all'interno delle formazioni partigiane jugoslave. E il secondo motivo è che già nel 1948 la Jugoslavia viene espulsa dal Cominform, c'è la frattura tra Tito e Stalin, e quindi inizia una storia diversa, una storia che è anche una storia di sperimentazione su almeno tre punti assolutamente importanti. Il primo, che la Jugoslavia, stretta tra due blocchi, diventa l'attore principale di una cosa assolutamente inedita e su cui credo oggi sarebbe quanto mai attuale riprendere a ragionare, che è il movimento dei paesi non allineati, un movimento che si inserisce in un momento di decolonizzazione di paesi come l'India, di paesi africani, via dicendo, e che innesca un fenomeno assolutamente sorprendente, che tra gli altri ha anche il pregio di fare un discorso sulla non proliferazione nucleare. Il secondo aspetto è che comunque, e qui a Trieste ne abbiamo avuto la riprova tangibile, chi come sottoscritto è cresciuto negli anni 70-80 in questa città, ricorda benissimo che entrare e uscire dalla Jugoslavia non era esattamente la stessa cosa che entrare e uscire, che ne so, dalla Polonia, dall'Unione Sovietica e via dicendo. Non avevamo bisogno di chiedere un visto per andare in Jugoslavia, e gli jugoslavi, i cittadini e le cittadine jugoslave, per venire qui in Italia, cioè passare la frontiera della cosiddetta cortina di ferro, avevano molti meno impedimenti. E quindi c'è anche questo aspetto della libertà di movimento che credo sia indicativo di qualcosa. Ma il terzo aspetto, quello più importante, quello più attuale, credo, riguarda quel fenomeno sicuramente non compiuto, sicuramente in parte fallito in Jugoslavia, che fu chiamato di autogestione, che nasce come autogestione produttiva, ma è un'autogestione che poi si estende alla società nel suo complesso. Da quel punto di vista, il movimento serbo, e qui chiudo e lascio la parola a Igor, che ha chiesto di poter fare il suo intervento in inglese, per quanto secondo me abbia già un'ottima competenza in italiano dopo pochi mesi, però farà il suo intervento in inglese, io proverò a blocchi a sintetizzare le cose che dirà, e sicuramente lui sarà bravissimo a correggermi se farò errori. Comunque, quello che dicevo, di quella memoria e di quell'ascito dell'autogestione della Jugoslavia, curiosamente nei movimenti degli ultimi, tramite Igor, io ho scoperto che, pur stando qua e essendo anche, credo, abbastanza attento a certe cose, negli ultimi 15 anni, oltre la nostra frontiera, tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Serbia appunto, in particolare, i movimenti, ce ne sono stati molti di movimenti dal basso, sono tutti accomunati prima di tutto dal fatto di contestare quella cosa su cui Igor insiste moltissimo, che è la transizione da società post-socialiste a società neoliberiste. E in secondo luogo hanno appunto la capacità di recuperare quell'ascito, di tentare di recuperare o di reinterpretare l'ascito dell'autogestione in Jugoslavia attraverso appunto dinamiche assolutamente orizzontali, come è stata quella dei plenum delle assemblee universitarie, come è stata quella poi degli zbor, dei consigli circoscrizionali sul territorio, e di tentare però appunto una sintesi tra queste dinamiche orizzontali e le dinamiche verticali. Sia chiaro, non abbiamo chiesto, Igor ce l'ha detto chiaramente, non vengo a fare l'apologia di niente, perché comunque quel movimento la sua battaglia la sta perdendo. Vucic resta al potere in Serbia resta al potere l'oligarchia che sta facendo affari praticamente con tutti, dalla Cina, all'India, agli Stati Uniti, all'Unione Europea, sta cedendo risorse comuni e collettive in ogni modo a scapito della popolazione di quei territori. Però appunto è un momento, quello che ci interessava oggi non era sicuramente discutere di quello che va bene, ma soprattutto cominciare a partire da cos'è che va storto e cercare di capire in che modo si può riuscire a rimediare. Grazie mille Andrea per la tua introduzione, è molto molto importante l'introduzione storico per spiegare anche i movimenti di oggi. Continuo in inglese, scusate, perché il mio italiano non sono sicuro se un italiano o un italo franco balcanico, non so, e anche per il tempo, per non perdere il tempo, passo in inglese per anche comunicare direttamente con Rodrigo, perché è vero, il suo libro è molto importante per i nostri movimenti, è un libro con i concetti che sono qui per discutere e per sviluppare. Ok, now let's switch to English. And I'll go. Switch microphone. Is it switch microphone? Yeah. Oh, now I forgot to tell it. Now it's English microphone. Yeah. You have something else? So I will go. I will just try to give you the story of the new Balkan left, because some of you probably know, because you visited some friends or you went. But over the last 15 years, there was a little miracle that happened in the Balkans. Not only bad things, no. And this little miracle is the new Balkan left. Nobody expected it to come after the end of socialism, after horrible wars, after horrible transition, after and within conservative nationalist hegemony that still unfortunately dominates the Balkans. Negli ultimi 15 anni in ex Jugoslavia, nei Balcani, c'è un fenomeno assolutamente nuovo e soprattutto inaspettato dopo anni di guerre, di massacri, soprattutto di politiche neoliberali in nome della transizione, e questo fenomeno assolutamente nuovo e inaspettato è quello di una nuova sinistra dei Balcani, la New Balkan Left. And it started with the student movement in 2009. Of course, not many people spoke about it. We started speaking about it when we saw the assemblies in New York, no? Which was 2011. But it already started with student movement in Croatia, in Zagreb, that experimented with this novelty, horizontality, no? And then, because the factory of forgetting, if you want, is so strong that over 20 years we forgot about the fact that we had self-management. Yeah? So we forgot that we had forms of horizontalism. We forgot even about socialism. Everything was forgotten and had to be rediscovered again. Ecco, questa nuova sinistra ha origine intorno al 2009 con i movimenti studenteschi, in particolare in Croazia, che nascono sull'onda, penso questo vada sottolineato, sull'onda del movimento Occupy negli Stati Uniti e anche nei movimenti precedenti, e in quel momento quelle generazioni non sanno, non ricordano nulla appunto di cosa sia stata l'autogestione del periodo jugoslavo. And then what happened is that this movement developed also in Slovenia. A couple of years later, we saw something in Bosnia that nobody believed possible, that people will come to the streets, organize horizontally, in the name of social justice, against ethnic divisions. This was really, there was something up in the air, and then a certain new ecology of the new left started developing. From student movement, to workers movement, to media, to culture, to the academia, that again rediscovered Yugoslav socialism as an Atlantis that was still, it was there, but everybody forgot about. Questi movimenti, appunto, l'aspetto importante è quello appunto della riscoperta di questo patrimonio politico, teorico, immagino, e di pratiche, di relazioni sicuramente, questo l'abbiamo sperimentato anche in 2001, molti compagni sloveni, da Lubiana, eccetera, erano col movimento No Global italiano nelle strade di Genova, quindi già in quel momento si vedeva, scusa la parentesi, la riscoperta di questo patrimonio politico dell'autogestione della storia jugoslava. And as you would maybe know, of course Slovenians were very much advanced theoretically, yes, and of course not only Žižek. Many others were there as well. Ha avuto anche una guerra più corta. But as you know, this was the division of labor in Yugoslavia. Slovenians are always a bit ahead, and the others are following. Then Croats came, but actually there where there was no theoretical discussions, the movement was the most radical, which was in Bosnia. Yeah? In this sort of applying this horizontality at the level of municipalities, yeah, for a couple of months in 2014. Malgrado gli sloveni, lui lo dice scherzando, eccetera, fossero teoricamente più avanti e più avanzati, dice come sempre. Poi qua. No, scusate, che veramente dei siparietti balcanici, comici, giusto? No, li rimandiamo dopo. Malgrado appunto in Slovenia e in Croazia ci fossero dei movimenti più avanzati, quello che si è rivelato più avanzato, soprattutto nel ragionamento sulle dinamiche orizzontali, è stato quello bosniaco nel 2014. And then in 2015-16 in Macedonia, that we forget, students again organized again horizontal movement, big protest, and the nationalist government fell there. Yeah. Nationalist government fell in 2016. This was called the colorful revolution. So there was already in the air this ecology, and now I'm coming to Serbia. But before that, we have to understand that I'll treat Serbia slightly differently. We have to understand that throughout this time, obviously this discussion started. Do we want horizontalism because we want more democracy, or we have to organize somehow? And at first, culpa mia, I was also a big advocate of horizontalism and against verticalism. Then I thought, well, maybe, you know, things should be better organized than we did so far because we faced the wall. Yeah, horizontalism. Fondamentalmente già nel 2015 anche in Macedonia c'è un movimento che utilizza molto queste dinamiche orizzontali, ma fondamentalmente quello che emerge dal racconto di Igor è che in tutta quell'area a un certo punto diventa chiaro che esiste un'ecologia, c'è un ecosistema che appunto collega le lotte, i movimenti che emergono. Questo aspetto dell'orizzontalismo è particolarmente forte e Igor nella sua esperienza personale dice inizialmente anch'io sono totalmente tutti voi se vuoi si è orizzontalista è una sinusoide. And the thing is of course that horizontalism, and you can find it also in Rodrigo's book, horizontalism is fantastic for radicalization and for politicization, not only of young people but anyone who lived through that. We'll never forget it, yeah? On the other hand, of course, we had to face a very hostile world outside our assemblies. L'orizzontalismo è una dinamica assolutamente entusiasmante per chi la sperimenta, ti mette in una condizione di assolutamente euforica rispetto a quello che stai facendo, però inevitabilmente prima o poi arriva il momento in cui c'è uno scontro con la realtà e ti rendi conto che non tutto può funzionare solamente attraverso quel tipo di dinamica. Aggiungo un aspetto che ho tralasciato dalle traduzioni precedenti. Dentro tutta questa ecologia balcanica emerge, questa è la roba che soprattutto adesso in Serbia ci ha colpito particolarmente, visto che la Serbia poi finisce per essere dipinta qua come il paese più nazionalista, che è l'aspetto internazionalista e antinazionalista di questi movimenti. Assolutamente. So therefore, what we did under the influence of Syriza and Podemos, it was like, let's go to elections. Yeah? Let's turn the movement not into a party, because we were still afraid of that, but to create a movement party, or to create a platform, or create a list, electoral list. We wanted to avoid, at any case, to build a party. And of course, again, now with my joke continuing, there's some truth in it, Slovenians were the first to realize that, then Croats, and then it comes further south, that we should make some sort of organization out of all within this ecology. Quindi inizialmente c'è stato a un certo punto qualcuno che ha iniziato a ragionare sul fatto se ad esempio gli esempi di Syriza piuttosto che di Podemos in Spagna fossero da imitare, e poi questa discussione è andata avanti giungendo fino al movimento serbo di quest'ultimo anno, in cui ha avuto un ruolo abbastanza centrale soprattutto negli ultimi mesi e mezzo. So now I'll talk about successes of this, because there are certain successes, and then I'll switch to failures. In Slovenia, our comrades in the party that left entered the parliament, and they got more than 10% of the vote. Later on, they lost a bit of support, but today they are in the Slovenian government, and they have 3 ministers of culture and social work and solidarity. And they did apply some of the programs that we would, of course, support within the liberal left government of Gold. Quindi ci sono state delle sperimentazioni, alcune hanno avuto anche dei parziali o dei successi, come ad esempio Slovenia, in cui tuttora adesso, ad esempio, c'è questa componente della lista radicale di sinistra data dai movimenti, che ha addirittura tre rappresentanti dentro il governo. Quindi Igor appunto illustra gli esempi di successo come quelli di fallimento. Again with the successes, because there is some, and we should talk about our successes more than our failures. We go in a couple of years ago, the city of Zagreb got a mayor from the left. Let's take a bit of how to what kind of miracle this is, because this is happening in a very nationalist country, that the left built a sort of a party movement, came into power in Zagreb with majority, clear majority, almost 50 or 60% of vote for Tomislav Tomašević, who was like one of us. He was a part of the Right to the City movement, was fighting in the streets, and then slowly developing this platform Možemo, and is still mayor of Zagreb, which I believe is our biggest electoral success. Ecco, un altro grosso successo elettorale è quello di Zagabria, che in questo momento ha un sindaco che nasce proprio nei movimenti, nelle strade, nelle lotte che si sono succedute in quel paese. Aggiungo io che recentemente ha avuto diversi episodi di tentativi di aggressione anche proprio con fascisti sotto casa sua. La situazione in Croazia sta cominciando a diventare molto, molto pesante. And even in Serbia, that for 30 years did not have the left, there was a copy of the Zagreb scenario. So in Croatia was Možemo, yes we can, Podemos. In Serbia was Mora, we must. And it was exactly the same. Strano, Ora siamo a cambiare. It's also very Kantian, part of the Serbs. We must, absolutely. They got it right. So there was the first time the left, the green left, because this is the new thing in which we discover our identity, green being green left, entered the Serbian parliament. So those were the successes. I'll get to failures. The failures, of course, are multiple. Either we were naive, or we couldn't understand the context, or we fragmented into various other groups that hate each other, or we were not mature enough or not ready enough to actually go into politics. And again, I'm probably one of the people who never had, because I've been living among all these cities, never had an urge to go into politics. Many of us just preferred to be academics. Many of us preferred to be intellectuals. Many of us, like myself, prefer to be writer, academic, intellectual, public figure, and always be right. You know, I always speak my mind in the media. I know, and never get involved into dirty things of politics. Fallimenti hanno a che fare da un lato con le varie ingenuità che ci possono essere quando venendo la situazione di movimento ti metti a tentare di fare qualcosa che fino a quel momento non era nel tuo bagaglio, quindi entrare su un ambito politico istituzionale che è completamente diverso, possono avere a che fare anche col fatto che comunque in molti casi questi movimenti nascevano da persone che erano nell'ambito accademico, intellettuale, eccetera, e quindi c'era anche un problema di rendere compatibile la nuova attività con il mantenere certe posizioni o comunque continuare. Però questo riguarda solo una parte della società, ovviamente. The problem of ecology is that this ecology is very weak. The fact that we had a great student movement in Croatia means nothing today. Most students today are on the right because there was no transmission belt. There was no institutions within which you will educate. And this is why pedagogy is an important term you also use in your book. This we couldn't actually deal with. And external blows were so strong that would dissipate certain energy that existed. Unfortunately, in Bosnia, this was the case with this with this ethnic division of the country, where it was impossible to actually create some strong civic left-wing party. Okay. Difficoltà di assumere tutto il passaggio. No, I'll continue and then we'll. No, it's now I will go to the. L'ecologia di cui sta parlando è debole per vari aspetti. Uno, ad esempio, che molti studenti sono a destra. Perché è mancato il passaggio, non ci sono state delle istituzioni che hanno avuto un ruolo di trasmissione della memoria pedagogico, per cui c'è stata una perdita di esperienza e quindi molti studenti sono adesso, questo è una parte di quello che. And there we get to the most difficult case, which is Serbia today, and the real enormous massive movement against the authoritarian / criminal regime of Aleksandar Vučić in Serbia today. Now, this is where these things become interesting also for you, and this is why I'm bringing this case also to hear your reaction. This is the movement that started from as an anti-regime, did not start as leftist movement. It is the movement that experimented with horizontalism, and there, obviously, this has to do something with anarchy, socialist, neo-communist tradition. On the other hand, the demands were very liberal. Rule of law, transparency, democracy, accountability. And on the other hand, when you go to the street with the masses of people, you would get not only flags, but also certain ideas that belong to the nationalist right. Allora, la Serbia è l'esempio che è più interessante, che infatti l'abbiamo immaginato come caso di studio oggi rispetto all'intervento di Rodrigo, ed è interessante prima di tutto perché nasce come movimento anti-regime, quindi con una forte opposizione proprio rispetto a un regime che ormai ha 15 anni che comanda in quel paese. Dall'altro, con un forte spirito orizzontalista, orizzontale, che si sviluppa subito nelle università, che poi nelle piazze finisce, e questo è un aspetto che ha molto a che fare, anche se pensiamo con certi movimenti, li abbiamo chiamati movimenti spuri, come è successo qui ad esempio con No Green Pass, qui a Trieste, nello specifico di Trieste, cioè il fatto che in piazza poi sono emersi, però insieme a questo tipo di contestazione, che potrebbe essere vista addirittura come ispirazione anarchica dal punto di vista politico, c'è una iniziano ad esserci delle presenze in piazza, delle simbologie e dei messaggi che si richiamano in qualche modo anche al nazionalismo serbo. And now I have three questions for us all, and especially for Rodrigo, in the context of presentation of his book. The thing is that your book is very theoretical and it gives a very large overview, so it could be applied everywhere. But the problem is, of course, that the context matters. Context of each country, context of each locality, context of regional context do matter. We are part of a larger society, and obviously it's not the same in Trieste or in Capital Istria or in Rijeka or in Zagreb or in Belgrade. Even within the post-Yugoslav context that has many similarities, and with all these connections that we wanted to establish across this space, differences are blocked or are determined to a large extent with political context in each country. Allora, un aspetto, una prima domanda riguarda l'applicazione del tipo di lettura che fa Rodrigo ai differenti contesti, nella consapevolezza che ogni contesto locale, eccetera, ha le sue specificità e ha tutta una serie di. The second question, of course, it's about ecology. Now, when we read your book, it is like the book written for me, or for many of you here. When you say our desires, when you say our project, when you say us, you think about basically who are here, you think about progressive left or today that wants social change. But our ecology, it's not only ecology of the left. Our ecology, like any ecology, goes into various spheres. No? There is a point of where our ecology joins the liberal ecology, where our ecology joins the far right movement or right or nationalist, because we live in these societies. There are situations in which we will have to fight against fascist tendencies together with liberals. No? Or we are not going to fight. We'll see. For instance, now in Croatia, there is a natural alliance between left liberals and the left against fascism. Therefore, where our ecologies will meet other ecologies and what to do about it. And finally, no, let me translate this. nel libro Rodrigo fa sempre riferimento a un noi, no, in qualche modo. È un noi che parla alla sinistra. Qualsiasi cosa voglia dire questo concetto, che in effetti ha creato problemi non di rado, soprattutto anche a discutere, a cercare di definirlo. E quindi un'ecologia della sinistra, però è innegabile che comunque le ecologie esistono in tutta la società, quindi finisci per avere delle ecologie che connettono anche soggetti i più diversi, comprendendo la sinistra liberale, comprendendo persino la destra e l'estrema destra. Quindi sono ecologie che bene o male in qualche modo finiscono per intrecciare. Ad esempio, se dobbiamo combattere l'estrema destra alleandoci con la sinistra liberale, o rifiutiamo questo tipo di alleanza? Per cui la seconda domanda riguarda questo aspetto della credo sia particolare. And of course, and the third one, at the end, it is a general situation in which we are. Obviously, 40, 50 years ago, the idea of social equality was hegemonic in many parts of the world. Or in the 20th century, the biggest project that happened in the capitalist West, but also in socialist East, was how to reduce social inequality. In whether it is in Italy or France or in, even in the States, there was certain idea that this has to be reduced. From Roosevelt to the 50s, 60s, capitalism will kill it itself. Social inequality has to be reduced. In socialism, obviously in various ways, from Soviet Union to Yugoslavia, different elements were used to reduce social inequality or to create and even engineer social equality. Today, we don't live in this world. It's not that this is a hegemonic idea, but it seems that for most parts of the world, it is accepted that social inequality is a given thing. The only thing is whether we are going to live under savage capitalism and mutual destruction, or under relatively ordered capitalism, in which it would be possible to have these assemblies, in which it might be possible that the left could influence the society. That's more of a comment rather than a question. Yeah, okay. La terza questione invece che viene posta è rispetto a tutto questo dibattito che abbiamo esposto oggi. Come lo combiniamo con l'attualità del presente, che è quella in cui qualsiasi ipotesi riformista, io direi, cioè il fatto che l'idea che il capitalismo possa essere un sistema che in un qualche modo viene riformato producendo maggiore eguaglianza rispetto a certi meccanismi, eccetera, ormai è scomparsa completamente dall'orizzonte, e quello che si sta prefigurando, lo vediamo chiaramente in queste settimane con come si stanno mettendo le cose a livello internazionale, non solo. Il panorama è quello in cui le diseguaglianze sono assolutamente legittime e normali. Io ringrazierei Igor per il suo intervento. Ricordate, è un invito che farei già per le prossime settimane sia alle compagne e ai compagni di Carta Sporca, Casa delle Culture e chiunque altro voglia starci. Io direi riprendiamo questa discussione sui Balcani e sulla Serbia, approfittando che persone come Igor, sua moglie, eccetera, sono qui in città, e io credo che possa essere molto utile parlarne anche in relazione al fatto che comunque c'è anche un altro aspetto che è quello della Balkan Route, ovvero delle migrazioni che passano per quel territorio e arrivano qua a Trieste. E la seconda cosa è che Igor è anche un romanziere, e il 6 febbraio presentiamo il suo libro, il suo ultimo romanzo tradotto in italiano alla libreria Lovat. Detto questo, chiedo ad Andrea in particolare, che aveva che ha il compito di animare il dibattito adesso a discussione. Facciamo rispondere a... Facciamo intervenire Sara e Alessandro. Ah, sì, volevamo... vedete voi se vuole, prima se vuole okay. Rispondere alle vostre sollecitazioni Rodrigo, e poi facciamo il dibattito con il pubblico o sì, stavamo pensando di... vorrei soltanto aggiungere uno spunto e poi raccogliere una domanda, fare rispondere e poi iniziare il dibattito per i prossimi 20 minuti. Grazie per tutti gli spunti. Qualcosa che mi è venuto in mente di relativo al libro di Rodrigo e che riprende l'ultimo punto di Igor, riguarda l'idea, riguarda che cos'è un movimento. C'è una citazione che Rodrigo fa in un testo che è un po' il preludio a questo libro che poi è stato pubblicato in Italia, in questo testo di più di 10 anni fa. Cita un'idea di non pensare tanto al movimento come a un movimento come sostantivo, ma pensarlo come in movimento, cioè che ogni movimento è anche in movimento, in mobilitazione è anche in movimento, e cioè divenire, ed è meglio pensarlo come un verbo. Ma tornando alla questione del movimento propalo, che qui è un po' una provocazione, credo che rispetto a questi temi che non sono locali ma che sono internazionali, il pensare in modo molto orizzontale, come diceva Rodrigo, ogni movimento orizzontale ha dei momenti di verticalismo, il punto che è verticale dei momenti orizzontali. Ma quello che ho notato è che nel momento in cui la nostra ecologia è digitale, nel momento in cui pensiamo bene al movimento propalo nel contesto dell'ecologia digitale, credo che diventa difficile fare delle proposte senza avere un forte verticalismo, nonostante anch'io mi ritenga in linea di massima orizzontalista come, come prospettiva, ma quello che serve in certi momenti è capire, cioè non soltanto lasciare l'orientazione o organizzarsi, ma proprio rispetto a, a certe questioni, in questo caso nelle questioni internazionali mi sembra che i movimenti verticalisti abbiano più forza rispetto a quelli orizzontali. Poi come ripeteva anche Igor e come abbiamo, hanno detto tutti quanti, non si possono fare queste grandi massime, questi assiomi, però quello che ho notato nel movimento Pro Power è che la mancanza di un movimento fortemente verticalista ha portato a che certe questioni si disperdessero, che non ci fossero delle proposte dirette o realistiche per certe cose. Questo è una provocazione, cioè che in certi momenti bisogna anche cogliere il tipo di proposte che bisogna fare e quale serve l'organizzazione migliore per quel momento. Tutto questo. Se c'è qualche domanda dal pubblico... Sì? Giusto un piccolo inciso, no? Perché li stiamo usando quasi come sinonimi, ma Rodrigo fa una distinzione molto netta tra orizzontalità e orizzontalismo, quindi volevo chiarire questo punto, no? Perché così si capisce meglio anche quello che stiamo dicendo. L'orizzontalità è qualcosa a cui tendere, è assolutamente auspicabile. Mi spiega nel libro che orizzontalità è la situazione in cui c'è la massima sicurezza possibile dei rapporti tra le persone, e questo va bene. L'orizzontalismo è un'ideologia che pensa che questa simmetria possa essere assoluta e realizzabile subito, e che quindi se una situazione in cui ci si trova non corrisponde a questa descrizione ideale e astratta, allora non va bene, e quindi questa roba porta a paralisi, perché chiaramente realizzare qui e subito una simmetria assoluta nei rapporti tra le persone è del tutto impossibile, è una situazione a cui tendere, a cui non si arriva mai del tutto, è un asintoto, si direbbe in matematica, no? Ecco, allora l'orizzontalità è sicuramente una cosa non solo auspicabile, ma è quella a cui tendiamo, la nostra idea di società, la nostra idea ultima di società, e dobbiamo avere delle pratiche che portino in quella direzione. Però l'orizzontalismo è un'altra cosa, è pensare che se non c'è la assoluta simmetria nei rapporti tra le persone subito, adesso qui, allora non va bene, e qualunque scelta che venga vista come una minaccia a questo stato di cose ideale che andrebbe realizzato immediatamente va scartata. La paura dell'organizzazione, anche di un'organizzazione minima, con tutto che in realtà l'organizzazione c'è anche in quelle situazioni lì, perché viene come la leadership, c'è sempre, però viene legata alle parole. Ecco, quindi volevo chiarire la differenza tra orizzontalità e orizzontalismo, perché mi sembra necessario per capire, Rodrigo, di cosa sta parlando. Sara, vuoi intervenire? No, un brevissimo appunto. Prima ancora dell'organizzazione stavo pensando al discorso del lavoro, della vita, per cui per esempio dal punto di vista degli studenti è importante coalizzarsi con i lavoratori, perché partiamo da una base di sfruttamento, partiamo da una base di condizioni di vita reali, per cui l'inflazione per esempio ci ha reso molto difficile andare a fare la spesa e spendere qualcosa di meno per poter spendere in altro, cioè cazzo è difficile vivere. Non so, mi sembra una cosa molto evidente ed è molto impossibile non parlare di questo, non essere incazzati. Quindi sì, va bene essere cioè avere un'organizzazione comunque che punti all'ecologia o all'orizzontalità, però mi pare molto evidente che si debba partire dalle condizioni di vita reali che abbiamo in comune, sia che si parli di studenti, sia che si parli di migranti, sia che si parli di lavoratori precari, sfruttati, vaccinanti. C'è una base di condizioni che deve far sì che anche nella vita pratica, prima ancora di arrivare all'azione politica, ci sia una tendenza a dire ok, non facciamoci raccontare stronzate che tutto sta andando bene, non sta andando bene per niente. E da questo punto di vista poi ci organizziamo e andiamo in piazza, perché è quello che bisogna fare. Rodrigo. Enrico, vuoi riprendere le considerazioni di quel che hanno già parlato o vuoi ascoltare degli interventi dal pubblico? Come vuoi procedere? Comunque sei il terminale di questi discorsi. Forse provo di fare la breve rispondendo a quel che già è emerso e poi passiamo alle domande. Allora, grazie io ancora una volta Alessandro Sara. Da dove posso cominciare? Allora, forse comincerò a te. C'è una questione, forse cominciamo con un punto che penso che possa servire a chiarire la differenza tra quello che io ho in testa quando parlo di ecologia e altre idee che sono già in circolazione da abbastanza tempo. In Italia, ad esempio, credo che almeno dall'inizio di questo secolo, no, io abitavo a Porto Alegre nel tempo dei fori sociali mondiali, quindi almeno da questo tempo, ma anche negli ultimi anni in Italia, a causa della lotta di GKN, la parola convergenza è diventata ancora una volta molto importante. E allora qual è la differenza tra la convergenza e quello che io ho in testa quando parlo di ecologia? Mi sembra che la convergenza sia una forma, diciamo, meccanica di fare l'ecologia, nel senso che a me mi suona sempre la parola convergenza come se ci sono le organizzazioni si mettono insieme per fare qualcosa, la fanno, importante, perché no, c'è una capacità collettiva quando si mettono insieme le diverse organizzazioni, che è più grande di quella che ogni organizzazione può avere individualmente, ma poi si fanno a casa, poi vanno a casa e basta. No? C'è un'agenda, è piuttosto un'agenda comune e basta, non c'è un pensiero più lungo al senso di strategia e così via. Perché abbiamo questa impressione, che forse non sia un'impressione, è veramente giusta, che, come dice Alessandro, che i verticalisti hanno una capacità più grande di incanalare l'azione collettiva in questi contesti di movimento, una capacità più grande di quella dei cosiddetti orizzontalisti. La risposta è: come decide una ecologia? Come può decidere un'ecologia? Io dicevo prima che uno dei problemi, forse il più grande problema teorico dell'orizzontalismo, inteso in quel senso che ha spiegato a Roberto, che è il senso in cui io utilizzo la parola nel libro, il più grande problema teorico è che l'orizzontalismo pensa la politica all'immagine dell'assemblea. E se proviamo di pensare la politica all'immagine dell'assemblea, allora l'orizzontalismo non è sufficiente come teoria per spiegare neanche i movimenti cosiddetti orizzontalisti. Perché precisamente non ci può spiegare, no, se pensiamo ad esempio agli indignados in Spagna, ci può spiegare come funziona l'assemblea di Puerta del Sol, ma non ci può spiegare come è stata creata l'assemblea, che non è stata creata da un'assemblea, o quali sono i rapporti che possono esistere tra le assemblee nelle diverse città, nello Stato spagnolo e così via. Quindi non, questo passaggio da pensare la politica come assemblea, quando passiamo agli spazi aperti, non delimitati, che sono l'ecologia, non funziona. Ma allora come può decidere un'ecologia se precisamente non c'è lo spazio collettivo di presa di decisione? E qui entra precisamente il tema della leadership e la necessità di riconoscere che la leadership nel suo senso più basico, più fondamentale, è una dimensione ineliminabile della politica. Perché come è nata l'assemblea di Puerta del Sol, no? Che è il punto di nascita veramente del movimento degli indignados nel 2011. Come è nata quell'assemblea? Da una presa di decisione. Da chi c'era? Così è nata. Quindi con quale legittimità hanno preso questa decisione? Con la legittimità che è nata retrospettivamente dal fatto che questa sia stata una decisione che altri hanno guardato e pensato è una buona idea, facciamo così. Facciamo così anche nella nostra città e così via. Quindi come può decidere un'ecologia? Dall'iniziativa di cosa? Dall'iniziativa dei suoi elementi. E perché le organizzazioni più verticali sono già degli elementi organizzati all'interno di questa ecologia, per loro è più facile prendere la iniziativa. Ma questo non vuol dire necessariamente che prendere l'iniziativa sia dire no, adesso tutti devono entrare alla nostra organizzazione e facciamo così, quella è la linea. Perché abbiamo proprio l'esempio che si discuteva prima, no, del sciopero generale dell'anno passato, che è un momento in cui queste organizzazioni prendono l'iniziativa, ma per dire allora convochiamo a un'ecologia a partecipare di questo spazio che abbiamo creato. Quello è qualcosa che nel libro io chiamo la piattaforma, fare la piattaforma. La piattaforma è sempre una mescola tra il verticalismo, perché la piattaforma è creata da qualcuno con i termini che decide, no? Quelli che creano la piattaforma, cioè in questo caso, in questo giorno facciamo qualcosa sulla questione palestinese che si chiamerà sciopero generale. No, una costrizione molto, molto debole, molto piccola, ma no, decisa da qualcuno, e poi di questa costrizione parte lo spazio, l'opportunità per un'azione collettiva che è anche aperta, che è anche orizzontale, nel senso in cui non viene interamente determinata da quelli che hanno aperto questo spazio. Voi che raccogliamo qualche domanda, almeno si sono candidati in tre, o aspettiamo un altro? Un'ultimissima cosa per riprendere quello che ha detto Sara. Un grandissimo problema non ne abbiamo neanche parlato, ma il libro propone l'idea che questo rifiuto dell'organizzazione degli ultimi, no, particolarmente dei movimenti che sono emersi dopo la caduta del muro di Berlino, è un rifiuto che nasce dall'esperienza storica, del trauma delle esperienze storiche del secolo passato, delle esperienze organizzative su scala del secolo passato, particolarmente quelle del cosiddetto socialismo reale, ma non esclusivamente. E questo perché si è rifiutato l'organizzazione, no, in quel senso molto problematico di cui parlavo all'inizio, la leadership, eccetera, perché si pensava che l'unica organizzazione fosse l'organizzazione verticalista, l'unica leadership fosse la leadership verticalista e così via. Un'altra cosa che si è rifiutato è la strategia e la tendenza in questo momento storico, dopo la caduta del muro di Berlino, è che l'identità prende il ruolo di strategia, no? Quando si sentiva parlare all'inizio del secolo, ad esempio, la nostra strategia è il Black Bloc. No, questo non è una strategia. Cosa facciamo? A distruggere le vetrine fino al comunismo? Come funziona quel passaggio tra una... Perché la strategia è proprio questo, no? La strategia è proprio una spiegazione di quali sono i passi che ci portano a cosa facciamo adesso, fino al punto di arrivo. Quello non è una strategia, è una tattica. È una tattica che poi diventa anche una identità. Quindi sì, l'iniziativa, sì, la presa di decisione all'interno dell'ideologia viene dall'iniziativa. La iniziativa richiama la capacità strategica, recuperare la capacità strategica. Recuperare la capacità strategica vuol dire precisamente partire dai problemi reali, partire dai problemi che sono condivisi da un grande numero di persone, trovare la forza strutturale, diciamo, di questi problemi, cioè se possiamo muovere questo punto, cos'altro si può muovere, cos'altro si muove, e poi identificare quali sono i passi che possono permetterci di muovere questo punto, che è un punto che parte dalla realtà della maggioranza della gente, che è un problema che è già sufficientemente condiviso dalla maggioranza della gente. Grazie. Allora, io ho già prenotato i tre interventi, se qualcuno vuole intervenire dopo me lo segnali. Ma è per un'economia mia, così poi scendo. Tanto riuscite a parlare tutti, tanto... Okay, facciamo brevissimi, dopo grazie. Il tema è sicuramente centrale, importantissimo, per il tema dell'organizzazione, secondo me, nei movimenti è il tema. Infatti, la tua presentazione sembra quasi, però, la tua presentazione quindi schematica, il libro, ho già detto un po' le note, capisco che invece va più indietro, che il tema dell'organizzazione è un tema che si dibatte da quando nasce il movimento socialista, operaio, diventato centro, ed è il tema su cui forse di più che la società futura ci si divide, perché su come si arriva a una società liberata è il tema, secondo me, che ho visto nella mia esperienza, in cui più sui movimenti collettivi in realtà si dividono ancora più della forma della possibile società. Questo vale anche per il movimento di cui appartengo io, ci si divide soprattutto sulle forme di organizzazione. Quindi è un tema, e il tema è quello su come coniugare organizzazione e libertà. Il tema, il nodo centrale per noi diciamo che siamo di sinistra, di movimento, chiamiamoci come vogliamo. E io ho trovato la presentazione, ripeto, senza aver letto il libro, quindi vado su quella, un po' schematica, perché nella mia esperienza, per esempio, però le esperienze sono diverse, quindi forse questa, diciamo, nei momenti di questa divisione fra chi, diciamo, gli orizzontalisti, come li chiami tu, rifiutano a priori la parola organizzazione e forme organizzative, invece chi invece propugna l'organizzazione verticale. Io penso che le cose sono un po' più complesse, nel senso che nella mia esperienza, nei momenti in cui ho partecipato, io ho visto poco questo rifiuto aprioristico di qualsiasi forma organizzativa, ma c'era da subito il tema di come ci organizziamo per fare la campata, per fare il corteo, per fare le mobilitazioni. E su questo sì, ci sono, si interagiscono sia le persone nuove che non fanno parte di collettivi politici, perché se un movimento vero e non è nei intergruppi, è un movimento falso, sono le persone che non partecipano precedentemente a collettivi politici, che sono preponderanti o poi presenti in numero centrale. Questa è la differenza, insomma, quando c'è un movimento, non è il numero di persone che coinvolge, ma chi coinvolge. Cioè, può esserci un movimento di quartiere di 50 persone nel movimento, se quelle 50 persone, la metà almeno, sono persone che non fanno parte dei collettivi politici. Non è il numero, è la qualità, secondo me. No? Questo quindi vale. E come ci si organizza? E secondo me il tema è centrale, e secondo me qui che intervengono le realtà di movimento precedenti, i collettivi, gli spazi sociali, questa tendenza, che se intervengono questi movimenti ne fanno parte, devono proporre forme organizzative diverse, e non, cioè in questo senso questo lascio da parte chi ha già una forma organizzativa verticale, perché una forma organizzativa verticale, un partitino, un'organizzazione gerarchica, la sua linea è entrare nei movimenti, prenderle da testa se possibile, e finito il movimento una grande area di militanti. Questo è lo schema di quasi tutti i partiti, diciamo, autoritari, diciamo, autoritari verticisti. Ma per chi come noi, la maggior parte delle persone in questa sala, fa parte di realtà sociali che in qualche modo, in modi molto differenti, cercano di coniugare organizzazione e libertà, non nel senso del partito verticistico, è il tema centrale. Quindi il tema centrale è essere nei movimenti e avere delle proposte da fare ai movimenti, che però devono partire da una pratica politica quotidiana, quando i movimenti non ci sono i periodi di bassa, come diceva Roberto, con delle pratiche virtuose che sono difficilissime, perché anche nei nostri collettivi, parlo anche della mia realtà, la questione della leadership, la questione di chi parla di più, di chi comprende, si prendono le decisioni, quali sono i rapporti tra i compagni e le compagne, un tema centrale, e sappiamo benissimo i problemi fra collettivi, all'interno dei collettivi, da sempre, su tutte le questioni. Quindi cercare di proporre delle pratiche virtuose, il tema centrale, e come dopo vado a chiusura, è una delle pratiche che secondo me andrebbe maggiormente implementata all'interno dei collettivi, ma anche fuori, è la rotazione degli incarichi, per esempio. È una cosa banalissima, ma non è banale. Se ci sappiamo benissimo che su un collettivo di 10-15 compagni e compagne c'è chi parla di più, chi parla di meno, chi è più timido o meno timido. Ma se le presentazioni dei dibattiti, del libro, dell'iniziativa, sono sempre i due o tre che sanno parlare, se ci dicono le cose, è meglio che parli un compagno e compagna che parla poco, che fa male la presentazione, che però si faccia, ma che siano invece semplicemente due che parlano bene, tipo me, che parlo decentemente di solito. Però io parlo troppo, per esempio, all'inizio di parlare bene. È anche molto velocemente. È molto velocemente, scusate, è uno dei miei limiti. Dico, questa è una cosa, quindi dobbiamo essere noi a fare lo sforzo sui collettivi di avere le stesse pratiche orizzontali e libertarie e proporle, non imporle, proporle nei movimenti. Perché il tema, l'ho finito, l'organizzazione di libertà è il tema centrale. L'ultima altra cosa, le tue parole che non ho sentito nella tua presentazione, la presentazione che è fondamentale, è il tema del federalismo, perché il federalismo è un tema centrale in organizzazioni ampie. Grazie, leggerò il libro con interesse. Raccogliamo ancora due, no? Così poi rispondete tutti insieme. Io volevo fare intanto ringraziarvi, ovviamente ringraziare in particolare Rodrigo, perché sono d'accordo con quello che si diceva nell'introduzione. Penso che nel campo della teoria dell'organizzazione politica i libri veramente utili non siano quelli che provano a presentarci qualcosa di completamente nuovo, ma quelli che in qualche modo risuonano con la nostra esperienza, sia con le cose che abbiamo considerato dei successi, anche con quelle che magari abbiamo considerato in qualche modo dei fallimenti. E da questo punto di vista mi sento di dire che sarebbe bello che questa occasione, in cui siamo veramente in tante tanti e anche diverse, diciamo, sia solo la prima nella quale troviamo un modo di confrontarci su questi temi, anche grazie, diciamo, usando il libro come un pretesto, non solo come uno strumento utile, ma che magari ci siano anche altre occasioni del genere in futuro. Io volevo fare una nota, collegare una domanda sul tema dell'ecologia, che è ovviamente centrale, perché io la trovo una metafora molto efficace dal punto di vista analitico per raccontarci di ciò che già c'è e ciò che già avviene. Però penso che per essere utile dal punto di vista, chiamiamolo normativo, cioè da dirci qualcosa di utile su cosa fare per migliorare la situazione, serva forse aggiungere qualcosa in più che sicuramente il libro fa. E parto dal concetto di ecologia in senso stretto, no? L'ecologia è un insieme di organismi che hanno delle relazioni, delle gerarchie, ci sono delle reti, ci sono delle successioni in termini evolutivi, ci sono delle perturbazioni e degli stress. Nella realtà molto spesso siamo noi esseri umani ad essere questa perturbazione, e dopo le cose partono magari in maniera diversa, ma c'è in qualche modo una dimensione fisiologica, cioè non c'è un'intenzionalità. La grossa differenza, quando trasponiamo questa metafora nel campo politico, è che parliamo di organismi che sono tutti animati da delle azioni intenzionali, fanno delle scelte. Allora, appunto, il tema, secondo me, un po' da sviscerare è questo, no? Che se la questione non è costruire una struttura delle strutture, se non c'è una ricetta precostituita, perché evidentemente i contesti, sia dal punto di vista dello spazio ma anche del tempo, sono tutti diversi, qual è l'indicazione che possiamo trarre dall'utilizzare l'ecologia come metafora per raccontare quello che facciamo e ciò dove siamo inseriti? Allora, il mio punto di vista, volevo chiederti appunto cosa ne pensavi, è che un concetto secondo me importante, non so se è banale, però è un punto di partenza, se non altro, è quello della cura, cioè di avere cura del contesto nel quale si agisce, che significa dal mio punto di vista che ogni organizzazione, a prescindere poi dal ruolo che ricopre, dalla strategia e dalla anche identità, perché inevitabilmente anche quello mettiamo in gioco, insomma, dell'identità che ha, dovrebbe avere la capacità, acquisire la capacità di sapere che quando fa una scelta non è una scelta che impatta e che ha un'influenza soltanto sulla propria traiettoria, ma evidentemente agisce anche sugli altri, sia in termini negativi che in termini positivi, no? Quindi per me avere cura non significa volermosi bene, non significa neanche va tutto bene, cioè qualsiasi cosa si faccia va bene, perché in realtà ci sono delle scelte anche prese dalla singola organizzazione o addirittura dal singolo individuo che possono magari abilitare altre scelte, creare degli spazi di possibilità per altri, oppure viceversa chiudere quegli spazi di possibilità. Quindi magari è un ragionamento non sufficiente, no? per evolvere in termini positivi, però mi sembra la base necessaria, cioè dire siamo in tanti e diversi che magari ci occupiamo degli stessi temi, modalità, ripeto, e con ruoli diversi, ma il punto di partenza per poter magari poi costruire qualcosa in più è rendersi conto che ogni volta che scegliamo di fare o non fare determinate cose, stiamo facendo una scelta che non condiziona soltanto noi, ma che determina delle nuove possibilità o ne toglie altre, diciamo, per tutta l'ecologia della quale facciamo parte. C'è la parola in Alberto, poi rispondere. Grazie. Io ho letto il libro di Nunes qualche tempo fa, inserito un piccolo scritto che ho fatto, questa lettura, che è un libro importante, che pone problemi importanti che sono oggi di un'attualità estrema. Io purtroppo ho cominciato a fare politica negli anni 60 e sono passato attraverso la trafila dei movimenti di quegli anni, la lotta continua al manifesto, dal manifesto all'autonomia operaria, e ho visto come questo movimento che aveva coinvolto una parte importante della società, non ricordo dell'assemblea, della Fiat, che facevano tremare l'intera città di migliaia di persone che gridavano vogliamo tutto, cioè vogliamo vivere, vogliamo vivere. E poi ho dovuto assistere al disfarsi di questo movimento imponente. Ho vissuto momenti in cui mi pareva di toccare con mano un'alternativa concreta, che poi invece si è sciolta come una montagna di ghiaccio con l'aumento della temperatura. E uno dei motivi, ci ho riflettuto molto e sarebbe da parlare per ore, uno dei motivi di questa fine, di questo scioglimento, di questo, come dire, disarticolarsi di questa massa di persone è dovuta alla mancanza di aver affrontato la vita quotidiana, le problematiche della vita quotidiana. parla, il lavoro, le amicizie. Cioè, la vita quotidiana era in mano al capitale, che ti prendeva la gola, ti prendeva le spalle. E c'è stato questo declinarsi, che poi è arrivato alla forma di lotta armata, che ho visto da vicino, che oggi le leggo come una forma di disperazione. Facciamo qualcosa, almeno viaggiamo, mettiamoci insieme e lottiamo, è una forma di sacrificare. Poi acquistiamo una dimensione sacrificale alla fine, no? Non posso accettare questo mondo, io mi getto contro, con tutto me stesso. E ho in mente dei compagni che hanno fatto questa scelta, che era proprio una scelta sacrificale. Quindi uno dei punti che tu tocchi, e che rientra questo nel termine ecologia, è organizzare la vita quotidiana. La politica deve partire dalla vita quotidiana, da quello che si mangia, dai bisogni, dal lavoro, e da lì crescere come una pianta dalla terra. Oggi viviamo in un'epoca, io non avrei mai immaginato, quando avevo 40 anni, di trovarmi in un mondo in cui si fa un genocidio in pubblico, cosa che i nazisti escludevano, no? Chiaramente. In un'epoca in cui il capitalismo ormai ha rinunciato ad ogni ipocrisia di tipo socialdemocratico, dice chiaramente le cose, la vita umana non vale niente, vale il denaro. Trump questo lo dice, almeno a questo pregio. Ecco, allora, ripartire dalla vita quotidiana, dalla vita di tutti i giorni, è un po' quello che io e i miei amici e compagni di Linea d'Ombra facciamo con i migranti della rotta balcanica che accogliamo tutte le sere nella piazza davanti alla stazione. E coinvolgendo su questa problematica che è iscritta nei corpi umiliati, feriti e ammazzati, ricordiamoci che Mediterraneo è un mare pieno di cadaveri come non c'è mai stato nemmeno durante le guerre, e di andare in giro a creare situazioni locali che partano dalla vita quotidiana, da situazioni di sofferenza, da situazioni di tensione, e cercare di collegare. Noi abbiamo migliaia di persone che ci aiutano, altrimenti non riusciremo a spendere, noi possiamo spendere in agosto per permettere ai migranti di andare dove vogliono, i migranti in transito, andare dove vogliono, possiamo spendere in un mese 60-70 mila euro. Chi si dà questi soldi? La gente. E noi andiamo in giro tra la gente a parlare, cercando di creare appunto situazioni locali di azione, di lotta, ma collegate tra di loro, in modo da tentare di ricreare dal basso la società. Perché questo è il punto, che oggi dobbiamo inventare dal basso una società che parta quindi dai bisogni della vita quotidiana, che non devono diventare come un elemento che spacca alla fine i grandi movimenti. Ecco, questo penso che sia un punto che il tuo libro tocca e che secondo me è un punto assolutamente fondamentale. Grazie. Ci sono ancora due interventi, poi rispondono o prendiamo ancora gli ultimi due, poi magari andiamo in chiusura, continuiamo a discutere rompendo le righe, mangiando qualcosa che abbiamo fatto due ore. Poi prendiamo ancora i due interventi. Poi fai una chiusa e poi continuiamo a discutere mangiando bene qualcosa, bene? Allora, buondì. Ti ringrazio innanzitutto, ma credo che sia una boccata, una grande boccata di ossigeno essere qui insieme con i corvi, appunto. E io volevo dire due cose, vado rapido. Uno è una sensazione spesso che penso tutti quanti noi troviamo, che anche di grande spaesamento. Faccio un esempio di alcuni movimenti, farò una domanda. Io vedo, non so, il movimento in Serbia di cui si è parlato, e ero anche in Serbia a una grande manifestazione a Belgrado, il giorno di San Vito, no? Che lì è molto importante in giugno. E seguo anche i movimenti, ad esempio in Spagna di questi anni, uno molto forte mi pare sia nelle isole Canarie, contro il turismo. Se ne parla molto poco qua, però è fortissimo, sta poi coinvolgendo sempre più persone. E mi sembrano accomunati, ad esempio, questi due lo potrei fare, ad esempio, dal fatto che hanno un obiettivo molto concreto, in questo caso, e lottano contro la turistificazione, la distruzione anche poi, no, di quelle che sono dell'isola, degli habitat e così via, e dall'altra parte il fatto di abbattere i regimi dei Bucis. Bene, ma c'è lo spaesamento poi in me risuona così. Io però poi non vedo la proposta, questo è il grosso problema. Cioè, quando io penso a Genova secondo me è stata abbattuta totalmente quell'esperienza, perché no, era anche un'idea di decolonizzazione, era una decolonizzazione dell'immaginario, del pensiero e dello stile di vita, del modello di società. Però io non vedo in questi movimenti, se non la forza incredibile di opporsi a uno stato di cose, non riesco a vedere una proposta che emerga. E si è parlato molto in Serbia di questo in quest'anno, ad esempio, e quindi vorrei chiedervi anche cosa pensate, se avete visto in questi movimenti, in altri invece, emergere dei modi diversi di formulare delle proposte, un immaginario nuovo che non sia solo quello di abbattersi contro uno stato di cose. E approfitto che sono qua perché colgo l'occasione. Andrea Vivieri diceva prima che probabilmente potrebbe essere anche l'inizio, la prosecuzione di una serie di incontri da fare, uno come questo, no? Di andare avanti a discutere assieme. Approfitto anche della tua presenza, sono contento che tu sia arrivato a Trieste. Mercoledì arriva a Trieste uno scrittore intellettuale serbo che si chiama Dejan Atanatovic, che è presente dentro questo movimento in maniera molto forte. Lui è stato arrestato, era sul ponte di Belgrado prima, per non farlo abbattere insieme ad altri compagni intellettuali, scrittori, cioè ha fatto una lotta molto grande. Mercoledì sarà a Trieste in occasione di un suo libro che però ha a che fare con tutto questo, alla Minerva alle 6, e si parlerà anche della situazione della Serbia attuale, per cui se uno vuole continuare a discutere ha la possibilità di parlare anche con lui. Grazie. Ultimo intervento. Grazie tanto, veramente una boccata d'aria, sono d'accordo per tanti punti di vista espressi. E volevo chiedere all'autore, a Rodrigo, se nel suo libro questo tema di come fare ha anche una chiave di una risposta nei risultati che si sono avuti, perché poi orizzontale o verticale, a seconda se orizzontale o verticale o un'altra formula, ha risolto il problema che voleva. E trovo che sia molto, molto utile anche quello che hai detto, che una delle cose, diciamo, da mettere da parte, che non è un obiettivo, è l'identità, perché questo trovo che sia un messaggio fortissimo per tutti, per sapere cosa fare. Trovo, ecco, quello che ha detto da ex orizzontalista, mi pare di capire, e anche lì ha a che fare con come arrivare agli obiettivi, e lì ha citato questa capacità di durare nel tempo, che deve essere una cosa fondamentale, e credo che anche il tema e la parola, uno strumento per riuscire a risolvere sia rappresentanza, cioè il fatto che l'orizzontalità, se non trova poi un modo per farsi rappresentare e per poter durare nel tempo, io credo che difficilmente possa arrivare ai risultati. Dico ancora l'ultima cosa, faccio un micro appello e dico che ci sono, Pumic conosce la nostra realtà di confine molto bene, l'ha descritta, è stato uno dei meritori, esternatori di quello che è successo qua nel secolo passato, che condiziona la nostra realtà. Quindi io credo che sia da sapere, è bellissimo sapere che in Italia rispetto agli altri paesi c'è tantissima ecologia locale, questo è molto confortante. Io non lo sapevo, posso dirlo di qui, ma tu che hai visto è un bellissimo segno. Dico che le soluzioni, le proposte ci sono, in questa città ci sono gli esempi di battaglie recentissime, continui, costanti, su cose importanti, ci sono comitati, ci sono nuove forze politiche. Bisogna però che tutti annaffino questo giardino, perché se non si annaffiano, se non si cura, non si va allo scontro. E dall'altra parte invito chi non l'abbia fatto a leggersi il documento sulla strategia nazionale di Trump, che fa letteralmente rizzare i capelli. Dall'altra parte non parlo di identità, dall'altra parte vogliono arrivare al risultato, quindi bisogna con velocità non perdere tempo e non rimanere a casa soprattutto. Quello che non si può fare è non votare. Un ultimissimo intervento. Sì, mi è stato chiesto di essere concisa e lo sarò sicuramente. E, a parte ovviamente di rinnovare l'invito a trovare degli spazi di confronto rispetto a queste tematiche, secondo me uno degli elementi su cui forse oggi non ci siamo tanto soffermati è quello di come coinvolgere le voci per mantenere gli individui all'interno della collettività, perché questa è una cosa che è una riflessione sulla quale dobbiamo chiederci come mai andiamo ad onde perché diminuiamo in termini di numeri. E perché diminuiamo in termini di numeri? Perché ci manca un senso di appartenenza e di contaminazione rispetto ai pensieri che abbiamo. Cosa ci porta in piazza? Ci porta in piazza un sentire individuale rispetto a un bisogno di stare lì, e in piazza incontriamo la collettività, che è quello che poi ci accende, ci dice vogliamo cavalcare quest'onda, e poi si interrompe. Si interrompe perché si interrompe la comunicazione rispetto ai nostri bisogni e ai nostri bisogni di stare in piazza. Oggi abbiamo parlato, diciamo così, abbiamo iniziato a parlare e ha colpito che quasi tutti quelli che hanno parlato erano uomini. È difficile cambiare questa modalità e prendere la parola in un contesto che è dominato dalle parole maschili. Credo che non ci sia una grande differenza tra le parole maschili e quelle femminili, se non quelle che le pronunciano, e quelle che si sentono il diritto di stare a prendere la parola. E secondo me dobbiamo riflettere su questa cosa per imparare una comunicazione differente che ci permetta di rimanere in movimento assieme. Grazie. Grazie tante ancora una volta per le domande. C'è tantissima cosa, io non so neanche da dove cominciare, ma forse provo di cominciare dalla domanda sui risultati. Perché primo è una domanda che mi arriva spesso in queste presentazioni, no? Che mi domandano, ma va bene, questa ecologia tua, cosa vuole? No? Qual è l'obiettivo di questa ecologia tua? E io devo sempre spiegare che questo non è una proposta che faccio io, no? Questa è una descrizione una descrizione della realtà che c'è già, e dall'altra parte ha una descrizione della realtà che io penso ci permette di cambiare lo sguardo su quello che abbiamo e che facciamo. L'obiettivo di un'ecologia è l'obiettivo che viene deciso da questa ecologia, non decido io. È proprio perché una delle cose più importanti che prova di fare il libro è spostare il dibattito dalla questione della ricerca di una forma ideale o di una ricetta ideale. La ricetta ideale non c'è, e precisamente per quanto riguarda il problema dei risultati, io direi che quello che propone il libro è, non so se c'è un'espressione in italiano equivalente a play with a full deck, a full deck, a deck of cards. Sì, giochiamo con tutto il mazzo, cioè invece di decidere in anticipo, basato sulla nostra identità, che giochiamo soltanto con queste carte o giochiamo soltanto con queste carte, giochiamo con tutto il mazzo. Quello che non vuol dire che noi lo faremo, ma che se ci sono quelli che lo fanno all'interno della nostra ecologia, aspettiamo a vedere cosa succede. Forse sia anche una direzione giusta per un tempo, che ci porta più lontano, e poi ci saranno altre direzioni che ci serviranno a meglio. Questo che ci porta verso la prima domanda, no? Penso che l'hai detto molto bene, il rapporto tra organizzazione e libertà, fino in fondo è questo il problema dell'organizzazione. Io direi che la mia presentazione è stata veramente un po' schematica, perché è un libro di 580 pagine, e non potevo mai, se io pensassi che era possibile dirlo tutto in una presentazione di una mezz'ora, l'avevo fatto dall'inizio, non avevo scritto il libro che mi ha esigito tantissimo tempo. Ma è vero che si può, io sono interamente d'accordo che la presentazione può produrre questa impressione, e per ciò che era importante quella che diceva Roberto, che c'è un lavoro permanente nel libro di dire quello che dico è qualcosa che esiste già, e voglio semplicemente segnalare quello che già esiste, cioè c'è un capitolo intero che è sul tema del binarismo e perché da tanto tempo il dibattito teorico sull'organizzazione torna sempre sul binarismo, no? Tra micropolitica e macropolitica, tra verticalismo e orizzontalismo, tra l'autonomia e l'egemonia e così via. E perché è proprio questo ciò che fa il binarismo: sempre che una alternativa non funziona, ci sono tantissimi che dicono proviamo allora l'altra, perché se non ci serve A, sicuramente ci servirà non A, e noi invece proviamo B, C, D, proviamo qualcosa di nuovo. E in questo capitolo io dico, ma evidentemente quello che dico io qui, che in un spazio orizzontale ci sono elementi di verticalità, in uno spazio verticale ci sono elementi di orizzontalità, tutti riconoscono questo, tutti riconoscono che non c'è una scelta tra la micropolitica e la macropolitica, si deve fare tutte e due, tutti riconoscono che non c'è una scelta da fare tra autonomia e egemonia, si devono fare tutte e due. È proprio questo che fa ancora più che rende ancora più difficile da capire perché torniamo sempre alle scelte binarie. Cioè, nella pratica si sa molto bene che le cose non vanno così. Nella pratica si sa che sì, in questo spazio ci sono delle leaders, questo non è necessariamente un problema, non è così perché no, sono cattivi e vogliono, vogliono fare i capi necessariamente, ma è semplicemente no, una dinamica naturale dei rapporti umani, e allora proviamo di trovare i meccanismi che ci permettono di spostare queste tendenze per non permettere a queste tendenze di fissarsi. E è proprio questo il problema, finalmente, perché la definizione, non abbiamo mai parlato della definizione, della forma come viene definita l'organizzazione nel libro, ma quello che io propongo come definizione è: l'organizzazione sono i mezzi che noi ci diamo per mettere insieme, per orientare, per incanalare e così via una potenza di agire collettiva. E il problema è che si dice così, possiamo pensare, va bene, quanto più mezzi ci diamo, più potenza, ma è evidente che non funziona così, e infatti precisamente quel trauma dell'organizzazione di cui parlavamo è il trauma di capire, di scoprire attraverso l'esperienza storica che i mezzi che vengono prodotti per mettere insieme questa capacità di agire collettivamente possono anche intrapolare questa capacità, questa potenza, e diventare ostacoli a questa potenza. Quindi l'organizzazione è sempre, allo stesso tempo, quella condizione di possibilità e rischio, e lo sforzo sarà sempre lo sforzo virtuoso, come hai detto, mi sembra anche la parola giusta, è di giocare con queste due cose. E nella pratica si sa che funzionano così le cose, ma poi anche perché, no, perché spesso arriviamo alla pratica anche con delle astrazioni in testa, ci creiamo nella pratica dei problemi impossibili, perché l'astrazione ci fa non capire quello che ci dice veramente la pratica. Cioè io sono stato in tantissimi spazi orizzontali che capivano perfettamente bene che era necessario giocare tutto il tempo con queste due tendenze, ma sono stato anche in tantissime discussioni all'interno di spazi orizzontali in cui si diceva: se non riusciamo a creare l'assoluta orizzontalità tra di noi, è meglio di non provare a fare niente. Quello che mi sembra un problema grandissimo è proprio il momento in cui l'astrazione come si può dire, wins over, ha prevalso sulla pratica. No, perché quello che dice la pratica è: proviamo sempre, perché precisamente stiamo trattando di una dinamica che è sempre la dinamica tra condizione di possibilità e rischio, e perciò è una dinamica che non si può risolvere, e perciò proprio non c'è la ricetta, non c'è la forma ideale, perché è un problema che non ha una risoluzione, è un problema che non si smette mai di provare di risolvere. Quando si dice se non riusciamo a farla perfetta, è meglio di non fare niente, è perché non si è capito che non c'è il farla perfetta, non c'è questo punto finale a, in cui si arriva alla perfezione, in cui si arriva a, all'assoluta simmetria nei rapporti di potere. Sul tema del federalismo, molto brevemente, io direi è veramente, io non neanche nel libro ne ho parlato. Mi sembra un'idea interessante, ma è il federalismo è un tipo di organizzazione e non un tipo di ecologia. Cioè, dal momento in cui un insieme di organizzazioni si mettono insieme per creare una federazione, loro hanno intorno a questa federazione un'ecologia. L'ecologia è sempre uno spazio non delimitato, che è quel spazio che esiste all'intorno di qualsiasi confine che si possa creare. Quindi è una non è una differenza politica, è una differenza proprio ontologica, diciamo, sono realtà diverse. Sul tema dell'ecologia, hai detto l'ecologia come metafora, è proprio divertente che in Italia sempre viene fuori questo dell'ecologia come metafora. Io non sono sicuro che sia, è vero che sì, c'è una parte che in cui l'idea di ecologia in questo senso non può funzionare di maniera che non sia metaforica, è vero, ma io non penso che sia soltanto una metafora, io credo che c'è una continuità molto più grande tra, diciamo, l'organizzazione naturale, l'auto-organizzazione naturale e l'auto-organizzazione umana. Ma è una questione più grande che io neanche io l'ho potuto risolvere ancora, quindi l'evito volentieri perché non ho una buona risposta. Ma quello che hai detto, che se l'ho capito bene, che quello che ci sarebbe di più importante che possiamo prendere dall'idea di ecologia per pensare i movimenti è il tema della cura, mi sembra precisamente quello che ho voluto dire, cioè quello che ci fa pensare, quello che spero che ci possa far pensare il tema dell'ecologia quando lo utilizziamo per pensare ai movimenti politici, è precisamente la cura dai rapporti di interdipendenza tra i diversi elementi di una ecologia, organizzazione, spazi, anche persone e così via, no? Perché c'è una idea che viene dalla filosofia, dalla storia dell'Ottocento e che non viene mai riesaminata e che è presente anche in quelli che si definiscono come anti-vanguardista, che è l'idea che c'è da alcuna parte l'idea giusta su come si fa la rivoluzione. E allora chi ha l'idea giusta è l'avanguardia del movimento. E come ha l'idea giusta può curarsi esclusivamente di sé, no? Perché noi siamo, sì, noi poi abbiamo un comportamento distruttivo al nostro intorno, all'interno della nostra ecologia politica. Finalmente questo comportamento si può giustificare perché noi abbiamo l'idea giusta. Mi sembra che questa è un'idea non esaminata che ci è legata dalla filosofia della storia del secolo dell'Ottocento e che dobbiamo assolutamente abbandonare. Non sappiamo come si arriva dove vogliamo arrivare. Non sappiamo perché il processo di arrivarci è un processo reale, fatto da un congiunto, un insieme di circostanze che non possiamo controllare in anticipo. E perciò, precisamente, dobbiamo curare i rapporti di interdipendenza al nostro intorno, perché non sappiamo mai cosa ci serve quando. E la nostra esistenza politica è anche dipendente dall'esistenza politica di tutte queste cose che sono al nostro intorno. Quindi proprio quello il saldo, diciamo il lascito pratico dell'idea di ecologia. Fermo sul tema della, ho già parlato tantissimo, fermo sul tema della vita quotidiana. Voi sapete che a Trieste, in Brasile si conosce abbastanza bene Trieste, perché tutta l'esperienza di battaglia, della lotta antimanicomiale in Brasile è stata un'ispirazione grandissima per la gente che lavora sulla sanità pubblica, anche la generazione che ha creato il sistema universale di sanità in Brasile dagli anni 90. E questo è un esempio grandissimo e bellissimo di una lotta che si è iscritta in tutta una comunità, no? Che non era semplicemente una lotta che si faceva dai movimenti, dai gruppi, ma che al iscrivere, diciamo, all'aprire le porte del manicomio e iscrivere il manicomio nella città è anche una lotta che si è iscritta in tutta una città, in tutto un tessuto della vita quotidiana della gente. È proprio questo, no? Molto, molto meglio che l'idea di convergenza meccanica tra le organizzazioni che esistono già e rimangono esattamente come erano dopo che convergono. E questo proprio mi sembra il tipo di, o anche no, le comunità che sono state create dalla teologia della liberazione in America Latina. E questo proprio il tipo di esempio che dobbiamo avere in testa quando parliamo di ecologia. Quindi finalmente mi fermo ringraziandovi triestini da questa bravissima esperienza, che anche in Brasile ci è servito di esempio e ispirazione. Grazie a tutti per la presenza di tutti, dopo due ore possiamo finire qui. E se volete ci sono, cioè, della pizza offerta libera, e grazie. C'è anche della iota calda, ma è vegetariana, preciso. Grazie a tutti e grazie alle compagne e compagni.